I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Le notizie arrivate con sorpresa da Giappone interessano anche all'Italia. Che cosa è successo in Giappone? È successo che il paese, contrariamente a qualunque analisi e a qualunque attesa, è entrato nuovamente in recessione. Perché questa notizia interessa anche l'Italia e più in generale l'Europa? Perché il Giappone era stato il paese che più di ogni altri in questo anno, con la cosiddetta Abe Economics, che prende il nome dal suo premier Abe, aveva cercato in ogni modo possibile di far ripartire i consumi con i metodi più classici che conosciamo: aumentare gli investimenti anche e soprattutto pubblici, ridurre il costo del denaro allo zero e via così. Eppure questo non ha impedito al Giappone di entrare in recessione, recessione tecnica ma completamente inattesa. Perché questo dato, che apparentemente potrebbe riguardare solo Tokyo, interessa anche da vicino l'Italia e l'Europa? Perché il dato dimostra ancora una volta quanto stiamo sperimentando da mesi, ossia l'incapacità di analisti ed economisti di leggere le dinamiche e i processi economici secondo gli schemi di una volta. Nessun economista e analista è in grado di dare più certezze sulle conseguenze di manovre e misure economiche che prima invece avevano un buon margine di possibilità di successo, con la tendenza e rischio di continuare a viaggiare per tentativi o di avere politiche economiche strabiche che quindi non ottengono gli effetti desiderati pur immaginando gli effetti stessi. Non è un bel mondo quello in cui si cerca di uscire da quella che non è ormai per nessuno più una crisi ma una rivoluzione, un cambio strutturale. Non è un bel mondo, dicevo, quello in cui si cerca di uscire da questa nuova dinamica senza occhiali e quindi procedendo a tastoni, oppure, come ebbe a dire un famoso economista, cosa c'è dietro l'angolo, gli fu chiesto, un altro angolo. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Oggi, con i 40 arresti decisi dai PM di Milano per altrettanti presunti aderenti all'Ndrangheta, abbiamo avuto un'ulteriore riprova che le mafie, con il loro medioevo di violenza e subcultura, aggrediscono gli apparati 2.0 della zona più dinamica del nostro paese. C'è una grande criminalità economica in espansione e una microcriminalità di territorio purtroppo in crescita. Secondo gli ultimi dati del Sole 24 Ore aumentano le persone arrestate e ormai sono quasi 1 milione l'anno. Ci sono però meno omicidi, meno furti d'auto, ma più furti in casa e più borseggi in strada. Nelle periferie poi sta salendo la temperatura dei conflitti sociali tra nuova e povertà. A Roma, ma anche a Milano e a Torino, diseredati italiani contro disperati immigrati. Nel mezzo cresce e prospera la cultura dell'antagonismo. A questi focolai si affiancano i numerosi conflitti sociali, conseguenze della crisi economica. Sono ormai 500.000 i posti di lavoro a rischio. Quasi 1 milione se ne sono persi da quando la crisi divampa. La violenza verbale della disperazione a volte trascende in violenza vera. Vi chiederete cosa c'entra questo con una rubrica che spiega l'economia. C'entra perché è chiaro che questa situazione di insicurezza generale e diffusa è un fatto economico, perché interferisce sulla cosiddetta fiducia, che è l'ingrediente primo per crescere, per credere nel futuro, per investire, creare sviluppo, occupazione e quindi reddito. Questi problemi naturalmente hanno origini e complessità diverse, ma la loro soluzione passa da una nuova stagione di investimenti pubblici e privati che possa far ripartire tutti i settori dell'economia, altrimenti resta solo la cappa plumbea della sfiducia, che è la vera materia prima della recessione.